e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ottobre, Debora, è il mese della prevenzione per antonomasia. Ricchissimo di appuntamenti, davvero. È vero, sono in corso numerose iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno, anche cuore denari. Altro che col professor Alberto Luini, stiamo facendo un lavorone. Un lavorone, ogni giorno potete trovare e ascoltare i consigli di prevenzione, stile di vita, aggiornamenti dalla ricerca andando sulla pagina del programma, ma noi ci occupiamo anche dell'altra metà del cielo con il nostro progetto Salute Uomo. Sono progetti che non si limitano naturalmente a ottobre, abbiamo iniziato a gennaio, un progetto che vuole aiutare gli uomini a conoscere le regole di prevenzione ma anche le novità della ricerca. Il nostro obiettivo come sempre è lavorare sulla prevenzione o meglio coltivare la cultura della prevenzione. Molto è stato fatto, c'è ancora molto da fare, un italiano su due, pensate, ignora che corretti stili di vita possono prevenire l'insorgenza di un tumore e 8 over 65 su 10 credono che il tumore prostatico non sia prevenibile. È una situazione che ha spinto l'Associazione Italiana di Oncologia Medica a promuovere una campagna di sensibilizzazione per intercettare quella fascia di popolazione, quella degli over 65, per la quale non esistono finora programmi di informazione e prevenzione adeguati. Allora oggi torna a trovarci il professor Andrea Salogna, che è responsabile del progetto Salute Uomo di Cuore Denari, con cui parleremo della prevenzione del tumore prostatico, ma vogliamo sensibilizzare anche gli uomini all'ascolto nei confronti di un tumore che è in aumento, colpisce i giovani, il tumore al testicolo. Se ne è parlato anche al recente congresso di urologia, da cui sono emerse anche novità importanti, ad esempio nel trattamento della disfunzione erettile, come avrete sicuramente letto, è disponibile la prima terapia topica in crema. Di tutto questo e per aggiornamenti e news 800 24 00 24 parleremo nella prima parte di Cuore Denari. Nella seconda parte, invece, per la pagina di Denari, andremo a tranquillizzare quegli ascoltatori che in questi giorni, tornando a casa, stanno guardando con un po' di preoccupazione la cassetta delle lettere. Come avrete sentito, infatti, sono state inviate, anzi sono in partenza, circa 220.000 missive da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sono lettere che ci mettono un po' sull'attenti perché segnalano che manca qualche informazione nella dichiarazione dei redditi che abbiamo compilato la scorsa primavera ed era quella precompilata relativa all'anno 2014. Un po' ci sta, no? Era la prima volta, quindi qualche errorino, bisogna vedere se quelli che sono stati fatti sono tutti in buona fede. Si tratta intanto di lettere bonarie, per cui noi vogliamo tranquillizzare tutti quelli che appunto un pochino si stanno preoccupando. Lettere bonarie perché nell'ottica di un fisco semplice e amico, so che sembra paradossale questo concetto, eppure spingono affinché venga trasmesso anche questo concetto a tutti i contribuenti, c'è ancora tempo per ravvedersi con il modello unico entro la fine dell'anno, subendo delle sanzioni ridotte. In pratica, grazie alle informazioni passate all'amministrazione fiscale direttamente dai datori di lavoro, dagli enti previdenziali e dai sostituti d'imposta, su circa 19 milioni di precompilate l'agenzia ha riscontrato circa 200.000 casi di contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione che dovevano. Allora, oggi chiariremo i termini di questa questione che ha generato un po' di confusione. 800 24 00 24, intanto cominciate a prenotare i vostri interventi. Sono andata dal dottore e mi ha detto di ricordarti della prostata. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire ricordarti della prostata? Le mando i fiori? Le faccio gli auguri? Compie gli anni? Sì, li compite insieme, hai 53 anni. E dopo i 50? Bisogna vedere come sta. Senti, io non ho nulla, la mia prostata sta benissimo. Sì, ma perché fate sempre gli scongiuri quando si parla di prostata? Se tu mi dici ovaio e utero, mica mi metto a fare le corna. Senti, diciamocelo, qui è tutta un'altra cosa. Anche come visita, dai, vuoi mettere un'esplorazione rettale? Non so se mi spiego. Non sarà mica una tragedia. Ma tu non ti sei mai fatto misurare neppure il PSA? E lì basta un prelievo di sangue. Li salutiamo, i nostri interpreti. La nostra scenetta interpretata magnificamente da Mario Nutarelli e Alessandra De Luca, a cui mandiamo un bacione. Allora, in linea con noi è tornato a trovarci il professor Andrea Salogna, urologo andrologo presso il Dipartimento di Urologia dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano, responsabile scientifico del progetto Salute Uomo di Cuore Denari. Eccolo qui, buongiorno e bentornato. Ciao Andrea. Buongiorno, ciao Nicoletta, ciao Deborah. Ciao. Allora, noi siamo pronti. Iniziamo Andrea, abbiamo mandato questa piccola scenetta perché iniziamo proprio ad occuparci del tumore della prostata, certo. Che ricordiamo il primo tra i 5 più frequentemente diagnosticate nell'uomo, al pari del tumore alla mammella nelle donne. Un tumore che ha delle caratteristiche specifiche, conoscerle può essere utile. Esatto. E quindi di che tumore stiamo parlando? Prima di tutto, se posso, Nicoletta, faccio un brevissimo riassunto di quanto i nostri due bravissimi attori ci hanno appena detto. Cioè, è molto frequente il fatto che sia la compagna dei nostri uomini a portare i loro mariti, i loro compagni, dall'urologo per farsi controllare la prostata e non solo. E questo dipende da due elementi importanti. Il primo, che c'è una sorta di atavica percezione che l'uomo si possa ammalare meno di quanto non faccia la donna, per cui il sesso debole viene considerato la donna e non quello maschile. Purtroppo non è vero. E di base non esiste la cultura e la consuetudine a farsi seguire dal medico dell'uomo, che è l'urologo, come tanto spesso ormai siamo stati abituati a dire. E poi l'altro aspetto importante, quando si parla di prevenzione prostatica siamo sempre nella condizione di immaginarci la prevenzione per un tumore, ma i problemi prostatici sono anche benigni e sono, certo, spesso più disagevoli e disturbanti di quanto non sia il tumore, che di per sé, e qui arriviamo a parlare del tumore, è purtroppo nella maggior parte dei casi totalmente asintomatico. È un tumore classico della popolazione che invecchia, maschile che invecchia, ma sempre più spesso, purtroppo, individuiamo tumori anche molto aggressivi in uomini giovani. Pensate che nell'ambito degli ultimi almeno 10 anni la probabilità che anche un uomo dopo i 40 anni abbia un tumore prostatico sta progressivamente aumentando. E per fortuna il fatto di poter fare quella diagnosi così, se vogliamo, repentina, con tutte le critiche che sono state fatte sul PSA, indubbiamente ci ha messo nella condizione di identificare casi specifici, mm-hmm, anche in pazienti che altrimenti non sarebbero stati intercettati. Esattamente. Allora, 800 24 00 24, per parlare di prevenzione con noi, ma anche per essere aggiornate sulle novità che sono emerse dal congresso di urologia che, mm-hmm, si è appena concluso. Esatto. Andrea, abbiamo fatto una specie di identikit del tumore prostatico. Allora, colpisce solitamente gli uomini un po' in là con gli anni, anche se l'età media di insorgenza, come hai detto tu, si è abbassata, la sopravvivenza molto, però è meno male, molto elevato, visto che supera mediamente il 70% dei casi a 5 anni dalla diagnosi. Me lo confermi? Certo, è proprio così, è proprio così. E poi per curarlo sono possibili diverse strategie, l'intervento chirurgico. Sono possibili diverse strategie, Nicoletta. Peraltro l'errore che non dobbiamo compiere è quello di considerare che, essendo sempre stato identificato come tumore degli anziani, di tumore alla prostata non si muoia. Purtroppo non è vero. Ed è molto importante sottolineare come una corretta identificazione e una scelta e una strategia terapeutica corrette siano alla base di questo raggiungimento di valori di sopravvivenza così elevati. La scelta di non trattare è una scelta plausibile. Tra le varie strategie in un malato che abbia identificato un tumore c'è anche quella che noi chiamiamo sorveglianza attiva, che non è una scelta di ripiego, non faccio nulla e guardo le cose come stanno. È una scelta che viene compiuta con rigore scientifico in ambito di una discussione collegiale con il malato, che deve sempre essere considerato, e al quale va detto chiaramente che esistono condizioni specifiche per PSA e per caratteristiche di aggressività della malattia per le quali si può seguire il tumore senza aggredirlo né con una radioterapia né con una chirurgia o con una ormonoterapia, con delle medicine, ma questi sono casi molto specifici che devono essere ben identificati. Altrimenti le due scelte principali sono proprio quelle di trattare il tumore con una radioterapia, ed esistono ad oggi delle macchine estremamente sofisticate, non bisogna pensare che sia la radioterapia che veniva impostata o suggerita anche solo 20 anni fa, è proprio molto diversa, si va a tridimensionalizzare la prostata e a disegnarla per trattarla. Oppure esistono strategie di tipo chirurgico, si possono fare chirurgie a cielo aperto, cioè quelle tradizionali, in cui si va a togliere la prostata e tutte le porzioni ghiandolari circostanti, o una chirurgia laparoscopica. Oggi sempre più, oggi nel nostro dipartimento 9 su 10 dei malati vengono operati con chirurgia robotica, che vuol dire con una chirurgia assistita da un robot, ma sempre eseguita dall'uomo, che ha però la possibilità di vedere le cose tridimensionalmente e con un'amplificazione, cioè implementando quella che è la capacità visiva in modo enorme. Andrea, hai detto che è un tumore spesso asintomatico, ma ci sono dei segnali che dovrebbero non dico preoccupare, ma spingere o la compagna dell'uomo oppure la stessa paziente a rivolgersi al medico? E seconda domanda, ci sono delle categorie a rischio? La familiarità conta? Poi parleremo naturalmente dello stile di vita, ma anticipo anche che vogliamo parlare oggi di un tumore di cui si parla molto poco, che però è in aumento, il tumore al testicolo, colpisce soprattutto i giovani uomini, per cui 800240024, parleremo anche dell'autopalpazione, bisogna superare i dubbi, i pudori, i timori, eccetera, che è in un certo senso un salvavita, passami il termine Andrea, e poi parleremo delle novità. Per il trattamento della disfunzione erettile c'è il primo trattamento topico in crema. Questo per ricordare un po' ai nostri ascoltatori i temi su cui possono intervenire, ma naturalmente domande, dubbi, perplessità. Parleremo, Andrea, anche di questo studio che ha creato molto allarme, che mette in relazione il consumo eccessivo di alcuni integratori con il rischio aumentato di tumore alla prostata. Ma Andrea, segnali particolari? Subito prima del le informazioni del traffico. Ho dato un breve sommario, un tumore asintomatico. Ci sono però dei segnali sospetti oppure delle persone più a rischio? Casi in famiglia? Innanzitutto la familiarità. E tutti i dati tendono a sottolineare, l'esperienza di un urologo è proprio quella, che familiari di un padre, di un fratello soprattutto, che abbiano avuto un tumore in precedenza, purtroppo sono a maggior rischio, e in loro, anche in assenza completa di sintomi, è sempre opportuno andare a controllare anche più precocemente il valore del PSA ed eseguire una valutazione urologica ben fatta. Questo è un dato indubbiamente importante. Ci fermiamo qua perché andiamo a sentire le informazioni sul traffico, rispondiamo subito dopo anche ai messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. A tra poco. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e denari. Cosa è la prostata? La prostata è facile. Ecco, dicesi di donna molto prostra in una. Ah, è la sua, dicevo che è una posizione, donna in stato di adorazione. Mi sovviene, è un dolce, lo faceva anche mia mamma, è la prostata di, si può fare di metilo, di per... l'imperatore romano, l'energia capitantino, Giuliano la prostata. Giuliano. È un classico, Andrea? Quando... È assolutamente un classico, sì. Come arrivano tantissime domande, sono alcune di queste rientrano proprio nelle classiche domande. È obbligatorio misurare il PSA a partire dai 50 anni? Andrea, una classica domanda. Sì, questa è una classica domanda, e nell'arco degli ultimi 10 anni tu ben sai, Nicoletta, di quante volte si sia discussa della valenza o meno. Partiamo dall'idea, il PSA è una proteina, anzi un enzima nello specifico, che serve a sciogliere il liquido seminale, e questo ha una funzione biologica importante per far sì che banalmente gli spermatozoi si riescano a muovere meglio. Poi ha molti altri ruoli, ma questo è forse il più semplice da spiegare. Viene prodotto solo dalla prostata, ed è per questo che è un marcatore, in termini scientifici si chiama biomarcatore perché è proprio biologico, che è tipicamente organo specifico ma non è malattia specifica, cioè prodotto solo dalla prostata ma non sempre per forza di cose identifica una malattia, e soprattutto non sempre una malattia tumorale. Quindi la scelta di fare una valutazione di questo genere deve essere poi inserita nel contesto clinico del paziente, partendo dall'idea che abbia un'età specifica, una familiarità, come dicevamo poc'anzi, e quant'altro. È ovvio che non ci sia un'identificazione totale tra il fare un PSA, cioè un dosaggio di questo enzima nel sangue, e identificare la presenza di un tumore, ma è la contestualizzazione delle informazioni che ci permetterà di dire è più facile che un malato abbia o meno una malattia tumorale. In questo caso specifico, peraltro, è sempre più eclatante l'evidenza di come una volta che io abbia fatto un dosaggio del PSA, di solito suggeriamo dopo i 50 anni, ma oggi ben sappiamo che il primo dosaggio forse avrebbe razionale attorno ai 40 anni per capire quale sarà poi la storia biologica di quella prostata nei successivi 30, e questo è un dato scientifico molto forte, però sappiamo bene che ad oggi le ricerche ci possono permettere non solo di biopsiare obbligatoriamente un malato immediatamente. Oggi esiste una metodica, e i radiologi ne sono la conoscono bene, principi, certo. Esatto, che si chiama risonanza magnetica multiparametrica o risonanza magnetica con bobina endorettale, cioè una risonanza magnetica della prostata che permette di identificare non solo le cose come siano fatte, cioè non solo la forma della prostata, ma di identificare all'interno della stessa delle aree a maggior sospetto, cioè che destino maggior sospetto per rischio di tipo neoplastico. Quindi potrebbe evitare la biopsia? Potrebbe aiutarci a ridurre la necessità di biopsia e soprattutto identificare quei malati che, a fronte di un tumore, l'avevamo detto prima, suscettibile di sorveglianza attiva, effettivamente abbiano più rischio di altri di dover poi, per forza di cose, passare ad una terapia con intento curativo più aggressiva. Andrea, vorrei passarti un po' di domande che stanno arrivando, le selezioniamo anche con Debora. Allora, su Twitter, Jack ci scrive: il tumore alla prostata dipende anche dalla scarsa attività sessuale? E per converso al 349-238-6666 ci chiedevano invece se l'attività sessuale svolge una funzione protettiva e preventiva. È troppo difficile dare un giudizio di questo genere. Devo dire, soprattutto, non esistono dati di scienza che ci permettano di dire con sufficiente rigorosità: fai più sesso, fai meno sesso, hai più rischio o meno rischio di avere un tumore prostatico. In assoluto no. Ci sono dei dati che sostengono come, facendo paradossalmente più attività sessuale, si abbiano valori più elevati di testosterone, e per converso è stato erroneamente correlato il testosterone più alto ad un tumore prostatico più probabile. Ma i dati sono troppo confusi e troppo rarefatti per dare un'informazione di questo genere. Non è possibile correlare. Quindi non si sa, ognuno si organizzi come meglio crede. Possiamo, è sempre bene avere una qualità di vita sessuale salubre, e questo è un dato significativamente importante, ma ciò deve essere considerato indipendentemente dal tumore della prostata. Tante volte abbiamo detto che l'attività sessuale è anche lo specchio della salute generale, no? Una buona attività sessuale, quindi anche dell'apparato cardiovascolare, genitale maschile, certo. E anche del cuore, vero? Non è anche una questione di cuore, che si dica. Poco di denari, certo, non per altro siamo qui oggi a parlarne in questa vostra trasmissione. Grazie, Andrea. Senti, allora c'è un caso di un ascoltatore, un 33enne, che ci scrive raccontandoci di soffrire spesso di prostatite cronica, sì, dovuta, dice lui, allo stress e anche alla bici. Solitamente faccio un ciclo di antibiotici, sessualmente tutto regolare, bruciori dopo l'atto, diminuzione del liquido seminale. Allora chiede se c'è rischio che queste infiammazioni portino al tumore. Io mi chiedevo se con un po' di buonsenso non sia il caso di curare prima lo stress e magari andare meno in bici prima di arrivare ad una prostatite che ti obbliga a cicli continui di antibiotici. Non so, ma qua la donna di denari che parla è Alice nel paese delle meraviglie. Eccoci, e aggiungiamo, Deborah, che suo padre è stato operato di un tumore alla prostata, quindi anche quel... Allora, se dovessi dare un giudizio critico, è più paradossalmente più importante la storia familiare di questo nostro ascoltatore rispetto al fatto che abbia avuto delle prostatiti, perché ad oggi esiste un filone di ricerca che parte dall'infiammazione, la prostatite appunto, della prostata, e sostiene che sia più probabile arrivare ad avere un tumore, ma è un solo filone di ricerca, e da un punto di vista clinico non c'è mai stata dimostrazione sufficientemente robusta perché le due cose vengano correlate. Purtroppo è vero quello che dice anche Deborah, curiamo lo stress e andiamo meno in bicicletta. Vi dico però che le prostatiti croniche di cui purtroppo quell'uomo soffre sono un po' considerate tomba dell'urologo, perché quando vengono sono difficilissime da debellare. Ed è questo importante sottolinearlo, perché se torniamo a quanto nella scaletta prima diceva Nicoletta, gli integratori vengono ampiamente utilizzati in quei soggetti che abbiano prostatiti croniche, e in quei soggetti gli integratori sono estremamente efficaci. Allora, prima rapidamente del GR, perché ci ritorniamo subito dopo, ricordiamo che c'è uno studio condotto all'ospedale Molinette di Torino che ha evidenziato che sostanze come selenio, licopene e tè verdi, ritenute da sempre protettive nei confronti del cancro alla prostata, se assunte in alte dosi tramite integratori alimentari, potrebbero aumentare il rischio di sviluppare il tumore alla prostata. Ne ecco. Avete parlato al convegno, vorremmo tra poco, dopo il GR, sentire anche il parere della comunità scientifica su questo studio, perché gli integratori ne usiamo tutti, se ne usano tanti, e cerchiamo di capire e di leggere in modo corretto la notizia dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questo? Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, puntata oggi dedicata alla prevenzione. Un italiano su due ignora che corretti stili di vita possono prevenire l'insorgenza di un tumore e 8 over 65 su 10 credono che il tumore prostatico non sia prevenibile. I dati sono dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che ha promosso proprio una campagna di sensibilizzazione per intercettare questa fascia della popolazione, soprattutto quella degli over 65, per la quale finora non esistono programmi di informazione prevenzione adeguata. Naturalmente ne vogliamo parlare insieme al professor Andrea Salonia, che è in linea con noi, con cui vorremmo commentare anche le ultime notizie che sono emerse dal convegno di urologia che si è appena concluso. E Andrea, sicuramente avrete parlato di questo studio dell'Università di Torino che mette in relazione il consumo di alcune degli integratori, di alcune sostanze contenute negli integratori e il rischio del tumore alla prostata. Allora, che cosa dice la comunità scientifica? Uno studio fatto su un numero di casi adeguati? Perché poi gli studi vanno letti. Esatto, in primo luogo non è su popolazione generale, cioè è uno studio in cui gli integratori di cui abbiamo parlato prima e di cui tanto si è parlato sono stati utilizzati ad alto dosaggio, al massimo dosaggio utile non tossico, che vuol dire senza che potessero fare danni, ma in pazienti che avevano già delle precancerosi, non in pazienti con prostate sane. E questo è già il primo dato importantissimo, in cui non si va a considerare un uomo che arrivi dal suo urologo o dal suo medico di base con un PSA, alto o basso che sia, senza alcun riscontro di cellule alterate, sì, ma uomini con cellule già alterate. Senti, e questo è il primo elemento importante. Il secondo? Il secondo elemento importantissimo è questo. Questo tipo di studio ha preso in considerazione alcuni tipi di integratori. L'integratore che viene maggiormente utilizzato in ambito prostatico è un altro, si chiama Serenoa Repens, che è un fitoterapico, e quindi non si deve avere timore di utilizzare un farmaco di questo genere anche a dosaggio terapeutico 320 mg. Questo è l'altro importante messaggio, cioè attenzione a bene interpretare le informazioni. Per questo abbiamo fatto questa puntata, esatto, di aggiornamento, esatto, perché vogliamo stare sull'attualità. Esatto, le informazioni proprio ci dicono che bisogna utilizzare con criterio anche gli integratori, sì. Non c'è la capacità da parte di questi di prevenire la comparsa di un tumore, ma questo studio era finalizzato a dire fondamentalmente in quelli che già hanno delle cellule alterate che cosa succede, che è cosa diversa rispetto a ciò che succede nella stragrande maggioranza dei pazienti che si recano dal loro urologo, dal loro medico curante. Allora, tra poco, i valori del ottimali del PSA quali sono, Andrea, rapidamente? Allora, prima di passare agli ascoltatori, detto, Nicoletta, sotto i 4 nanogrammi millilitro. In oggi realtà sappiamo che devono essere studiati in funzione dell'età e delle caratteristiche di comorbidità del paziente. Usualmente tendiamo a definire patologici o comunque da vedere con sospetto valori sopra 1 nanogrammo millilitro in uomini attorno ai 40 anni, perché negli anni successivi, nei 30 anni successivi, la probabilità che questi uomini sviluppino una patologia più seria purtroppo è elevata. Elevata. Enrico da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti, ringrazio della chiamata. Io ho fatto, mi controllo regolarmente il PSA perché mio padre, mio zio, fratello di mio padre, ambedue hanno avuto il tumore, uno è morto, l'altro per un altro motivo, ma aveva un tumore alla prostata. Io ho fatto le visite, mi controllo regolarmente il PSA, oggi è 3.6, ho 66 anni. L'ultima visita mi si dice che ho la prostata ingrossata e questo ingrossamento potrebbe a un certo punto stringere l'uretra e quindi ci sarebbe bisogno di un eventuale intervento per rimuovere le parti tra la vescica, certo, e la prostata per far defluire. E quindi Enrico, lei chiede un parere ad Andrea Salonia? E questo è il motivo della sua chiamata. Questo è una cosa che si può gestire, va lunga nel tempo oppure è una cosa da controllare spesso e quindi Andrea, possiamo rispondere ad Enrico in questo modo: non c'è correlazione alcuna che ci dica che ad un ingrossamento della porzione centrale della prostata, immaginatevi la prostata come un arancio, con una buccia che chiamiamo capsula, con una polpa che è il cosiddetto adenoma. La porzione centrale è la nostra polpa dell'arancio ed è l'adenoma. Non è detto che in alcun modo ad un ingrossamento di questa porzione corrisponde alla possibilità di un'evoluzione tumorale. È certo vero che il nostro Enrico, avendo due casi intrafamiglia di tumore prostatico, dovrà essere meglio controllato. Da un punto di vista terapeutico, un uomo che abbia un ingrossamento prostatico non per forza di cose avrà dei sintomi e quindi non per forza di cose dovrà essere operato. Ci sono ad oggi delle straordinarie possibilità terapeutiche mediche che possono gestire, quantomeno inizialmente, la sintomatologia anche in presenza di grosse prostate. Allora, Andrea, come anticipato, vogliamo almeno toccare due temi che poi riprenderemo magari in una puntata di Salute Uomo. Certo. Vogliamo parlare della prevenzione di un tumore aggressivo spesso sottovalutato, addirittura dimenticato, perché rappresenta il tumore del testicolo. Esatto, colpisce nel cuore degli anni, 25-49 anni, quindi in piena età riproduttiva, e vogliamo sottolinearlo, la sua frequenza in drammatica crescita, pari al 45% negli ultimi 30 anni. Abbiamo due minuti purtroppo da dedicare a questo tema, perché vorremmo anche parlare della novità per la disfunzione erettile. Certo. Proprio diamo un'anticipazione che poi svilupperemo in Salute Uomo, Andrea. Sì, vorrei sottolineare l'impegno che ad esempio la Società Italiana di Urologia ha profuso in questo campo, a cui peraltro ci si può rivolgere con grande tranquillità, perché è fondamentale fare diagnosi. In questo caso si può fare oggettivamente prevenzione secondaria, che vuol dire è facilissimo cercare da sé la presenza di un problema a livello testicolare. Non bisogna avere vergogna, non bisogna avere paura di farlo, si chiama autopalpazione, la stessa cosa che le signore fanno con la mammella, che sono state tra virgolette edotte a fare negli ultimi 40 anni da quando si conosce quale sia il rischio del tumore mammario. Fare palpazione del testicolo è molto semplice, basta farlo ogni qualvolta si faccia la doccia, ed è importante che si cominci a fare dall'epoca adolescenziale o preadolescenziale, proprio per questo picco purtroppo sempre più elevato di tumore nell'epoca che va più o meno dai 14-15 anni fino ai 40 anni. Andrea, come proprio per questo voi avete presentato al congresso un cartoon del professor Esatto. Urosapiens, pensato proprio per insegnare ai ragazzi i 5 tocchi da compiere, muovendo le mani nel modo e nel posto giusto per intercettare precocemente qualche nodulazione da portare all'attenzione del proprio medico. Ecco, trovate naturalmente il link sulla nostra pagina. Quanto, e ne torneremo a parlare, mi raccomando però, non sottovalutiamo questo tumore che, se preso in tempo, no, può essere assolutamente affrontato, ma dobbiamo intercettarlo. Si può guarire dal tumore testicolare proprio se preso in tempo utile e ben trattato. La sopravvivenza ad oggi è dimostrata sopra al 90%, che vuol dire che più di 9 uomini su 10 guariscono e si dimenticano di aver avuto un tumore testicolare. Allora, al convegno di urologia avete anche parlato delle novità terapeutiche per la disfunzione erettile, in particolare di una terapia topica in crema, esatto. Andrea, anche di questo parleremo, ma dato che vogliamo un po', no, stare sulla notizia, un commento su questo nuovo... Allora Nicoletta, questo è il primo prodotto in assoluto disponibile in Italia con la caratteristica di poter porre in crema un farmaco sul glande, quindi a livello penieno, che richiami sangue e promuova la comparsa di un'erezione. Questo è un po', se vogliamo, l'alter ego delle medicine per bocca di cui tante volte si è parlato. Ha delle precise indicazioni in pazienti che abbiano una disfunzione erettile, cioè problemi di erezione da medio a lieve a moderato, che fondamentalmente possono con grande facilità usufruire di questo prodotto. Non so se possiamo dare il nome, è un prodotto che viene distribuito da una ditta italiana, e questo è un altro motivo di vanto, in Italia. L'elemento piuttosto importante è che viene a colmare una, se vogliamo, un buco nell'armamentario terapeutico anche per quelle persone che ad esempio non avrebbero potuto assumere dei farmaci per bocca, o quelli in cui fondamentalmente non è gradita l'assunzione di un farmaco per bocca. Controindicazioni, rischi, avvertenze? Perché non c'è una controindicazione specifica, a meno che non esista una intolleranza locale, una iperreattività locale a livello della cute del pene, fondamentalmente nei confronti del farmaco. La molecola si chiama alprostadil, è una molecola specifica. La bontà di questa crema è che è agganciata a questa molecola specifica, cioè quello che si chiama enhancer, cioè una molecola che a sua volta facilita la penetrazione all'interno del glande in modo assolutamente atraumatico. Gli effetti collaterali sono legati a delle reazioni locali, non ci sono effetti sistemici, quindi legati ad esempio alla pressione, piuttosto che possano controindicare l'applicazione della molecola. È sempre meglio comunque parlarne con il proprio medico, Andrea, immagino. È importante, ecco, perché il medico non è che solo... perché una crema uno fa, esatto, il fai da te. Ecco, esatto, questo vorrei... è un presidio medico assolutamente autorizzato, e quindi ha passato tutto ciò che da un punto di vista legislativo è importante che venga passato, perché un farmaco venga riconosciuto come vendibile e fruibile della popolazione laica. L'elemento piuttosto importante è che il nostro medico, di qualunque genere esso sia, dal medico di medicina generale fino al più esperto degli andrologi, potrà dare quelle indicazioni, quelli che chiamiamo trucchi di sacrestia, per l'utilizzo corretto e il massimo del beneficio dall'applicazione della crema. Andrea, noi ci fermiamo qua, ulteriori approfondimenti su Salute Uomo nella nostra pagina, e torni a trovarci come sempre l'ultimo venerdì del mese. Grazie ad Andrea Salonia, buona giornata. Grazie Andrea, buona giornata. Allora, adesso cambiamo argomento, pagina voltiamo di denari. Voltiamo pagina. Sì, Nicoletta, oggi parliamo di lettere, però purtroppo non sono lettere d'amore, c'è ben poco romanticismo in quelle che ti propongo oggi, però andiamo a sentirle. Gentile contribuente, nell'ambito di un rapporto sempre più trasparente e collaborativo tra cittadino e fisco, le segnaliamo una possibile anomalia che abbiamo riscontrato riguardo i redditi che lei ha percepito nel corso del 2014. In particolare, in base ai dati che sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate, risulta che lei abbia percepito diversi redditi da lavoro dipendente o da pensione da più sostituti di imposta. Le chiediamo pertanto di verificare se effettivamente sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 e se risultino ancora delle imposte da pagare. Questo sintetizzato è il testo della lettera che potrebbe arrivare a qualcuno di voi o di noi prossimamente. Il mittente niente di meno che l'Agenzia delle Entrate, che sta iniziando appunto a distribuire, ad inviare 220.000 inviti bonari, perché si chiamano così, ad alcuni fra i contribuenti che hanno scelto di compilare quest'anno, di cimentarsi nella dichiarazione dei redditi con il nuovo modello precompilato. La grande novità di quest'anno, di cui abbiamo parlato la scorsa primavera tante volte proprio qui a Cuore Denari. Sgombriamo subito il campo. Se qualcuno sintetizzando in modo scorretto, vi ha parlato di 220.000 controlli scattati o accertamenti, si sbaglia, perché anche l'Agenzia delle Entrate lo ha precisato con questo comunicato che è stato diffuso proprio ieri. Sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi senza conguaglio nel 2014, non hanno ancora provveduto ad inviare la dichiarazione per questi redditi percepiti per il periodo d'imposta 2014. Sembra una situazione ingarbugliata, ma è molto più semplice di quello che non sembri. Adesso ne parliamo con il nostro esperto. Quindi, dicono dall'agenzia, c'è una nuova possibilità offerta dall'Agenzia delle Entrate che, proprio grazie alla precompilata, consente ai contribuenti di poter rimediare per tempo. Oggi allora capiamo bene di cosa si tratta, chi deve preoccuparsi, chi potrebbe riceverle e cosa bisognerà fare in quel caso. Ci aiuta a districarci in questa giungla la dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista, esperta in tematiche tributarie e fiscali per il Sole 24 Ore, che salutiamo. Ben ritrovata, dottoressa Cerno, buongiorno. Benvenuta. Grazie, buongiorno, buongiorno. Allora, 800 24 00 24, intanto vi chiedo se avete scelto la scorsa primavera la dichiarazione dei redditi precompilata per i redditi appunto 2014. In quell'anno avete poi rinfrescato la memoria e avete ricordato che avete percepito più di un reddito e non lo avete cristallizzato in questa precompilata, quindi avete il dubbio oggi di aver sbagliato qualcosa e di essere fra i 220.000 potenziali destinatari di queste lettere. Scriveteci al 349 238 6666. Io però intanto dico che ai primi 5 che chiameranno in diretta all'800 24 00 24, oggi regalo, anzi regaliamo con Nicoletta. Io ne regalo una, se perché vuoi. È mia complice. No, io ne voglio regalare 5 o 6 perché ne ho un po' di più. No, ma io dico la donna di cuore 1 e la donna di denari ne regala 5. Di più. Abbiamo questi inserti che escono proprio oggi con il Sole 24 Ore: riscossione, al via la riforma, rateazione più ampia, tolleranza sugli errori, l'impatto del recente decreto legislativo 159 del 2015. Insomma, se volete saperne di più sulle nuove modalità di riscuotere le imposte, oggi abbiamo questo inserto all'interno del quale probabilmente, dottoressa Cerno, però non ci sono queste novità sui 220.000 avvisi bonari che l'Agenzia delle Entrate diffonderà nei prossimi giorni, no? No, non ci dovrebbe. Non sì. È così, cioè, appunto queste lettere che vengono inviate in realtà saranno o stanno per essere inviate a coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2014, quindi si potrebbero preoccupare quelle persone, quindi persone fisiche che non hanno presentato quest'anno la dichiarazione dei redditi perché magari ritengono di essere esonerati, perché anche l'anno scorso magari non l'hanno presentata, e invece l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni che ha, ritiene che questi soggetti debbano presentarla. Perché allora viene fatta questa associazione con la precompilata 2014, dottoressa Cerno? L'associazione con la precompilata avviene per questo motivo, perché grazie alla precompilata l'Agenzia delle Entrate riesce a sapere in tempo reale, quindi già da quest'anno sa, che magari due datori di lavoro oppure due o più enti previdenziali hanno corrisposto dei redditi di lavoro dipendente ad una persona. Quindi, incrociando i dati, vedono che questo signore che ha percepito redditi di lavoro dipendente da più datori di lavoro non ha presentato la dichiarazione dei redditi, allora in quel caso scatta la lettera, che in verità appunto non è un avviso bonario, è una lettera, come dire, per invitare il contribuente a sanare questa irregolarità. Quindi anche noi l'abbiamo chiamato impropriamente avviso bonario, non è neanche quello, non è un accertamento. No, no. Esatto, perché come dobbiamo chiamarlo allora? Ma chiamiamolo invito. Invito. Un invito a regolarizzare la propria posizione. Un richiamo. Un richiamo, esatto, un richiamo. Ecco, va bene, vedi, a cuore denari si dicono le cose come stanno. Dottoressa Cerno, le risulta che siano già arrivate a qualcuno? Sono in partenza? Sono già partite? Qualche suo cliente le ha già fatto presente la situazione? No, in verità io non conosco nessuno che abbia questa situazione, quindi che abbia ricevuto queste lettere. So che comunque appunto stanno per essere ricapitate, quindi in questi giorni stanno per per arrivare. E comunque, ripeto, queste lettere saranno recapitate comunque pure a 220.000 soggetti che però si trovano in questa situazione particolarissima. Ci fa un altro esempio concreto appunto per capire chi potrebbe riceverla? Sì, potrebbe riceverla, per esempio, un soggetto che, facciamo una persona che nel corso del 2014 ha cambiato lavoro e quindi ha cambiato datore di lavoro e non ha chiesto all'ultimo datore di lavoro, quindi al secondo datore di lavoro e quello attuale magari, di applicare il conguaglio sulle ritenute, quindi sulle imposte. Non avendo fatto questa apposita richiesta e domanda, diciamo il datore di lavoro ha applicato le ritenute partendo da zero e quindi il contribuente, diciamo questa persona, il dipendente, avrebbe dovuto comunque presentare la dichiarazione quest'anno. Perché se ne deve preoccupare il lavoratore, brava, dottoressa Cerno, e non il datore di lavoro? Perché di... è la legge che prevede questo, che io magari posso non avere interesse a chiedere il conguaglio al secondo datore di lavoro e magari voglio presentare comunque la dichiarazione dei redditi. Quindi la legge prevede che io mi debba far carico di chiedere, diciamo, al secondo datore di lavoro questa situazione, il conguaglio. Certo, e quindi insomma chi non ha fatto questo conguaglio deve preoccuparsi di sì, sollevare la questione. Senta, se siamo nel dubbio di essere in queste condizioni di cui lei ci ha fatto qualche esempio, ma la lettera magari non arriva, non arriverà, non lo so, come possiamo in qualche maniera toglierci questo peso dal cuore, direi, no? Esattamente, perché cercare di capire se dobbiamo comunque regolarizzare la nostra posizione. Sì, ho visto che in questo caso l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento e comunque un comunicato stampa in cui dice che chi vuole ricevere maggiori informazioni e assistenza può comunque contattare l'Agenzia delle Entrate o chiamare il call center ad un numero dedicato che è l'848-800-444. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e penso guardi, un po' anche che, sabato che cito, guardi qua, infatti il sudore colerà dalle fronti degli impiegati adesso, a parte la battuta. Grazie per averci dato anche questo riferimento. Questa mattina stiamo persino promuovendo l'attività dei call center dell'Agenzia delle Entrate, il che ha dell'incredibile, soprattutto per quegli ascoltatori ai quali stiamo cercando di trasmettere questa immagine del fisco amico, perché in molto che pochi non è andata ci giù, credono. No, direi proprio di no. Allora adesso torniamo su queste 220.000 lettere in arrivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Non sono avvisi bonari, sono neanche degli accertamenti, dei richiami, come li hai chiamati tu prima? Richiami. Dei richiami, quindi ci sta bene chiamarli così, appunto inviti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se si ricevono, allora che cosa si deve fare? Se si pagano delle sanzioni, insomma come ci si deve comportare? Però direi che tutte queste informazioni ecco, le diamo dopo la borsa. Ti invito e ti richiamo a dare le notizie della borsa. A tra poco. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta Cuore e denari. Scrivo una lettera per te, così personale leggerai. Mi è sempre piaciuta tantissimo questa canzone di Luca Carboni, molto più romantica della lettera che ci sta arrivando, no, che ci non sta arrivando, detto. Speriamo di no. Speriamo di che non essere lì fra i 220.000 potenziali destinatari di questa simpatica missiva. Guarda, dell'Agenzia delle Entrate. Io ti devo dire una cosa, che quando passo davanti alla mia casella della posta e vedo che è vuota, mi sento sollevata. Questa qua, vero? Del sole e quella di casa. Anche Carmelo. E un po' tutti. Allora, come dicevamo, più che avvisi bonari, più che richieste di accertamento, sono degli inviti a presentare la dichiarazione dei redditi per quei contribuenti che, pur avendo percepito più redditi nel 2014, non hanno fatto il dovuto conguaglio e non hanno provveduto appunto ad inviare la loro dichiarazione dei redditi per questi redditi, per l'appunto non hanno provveduto ad inviare queste comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Quindi dall'Agenzia delle Entrate stanno spiegando che è una nuova possibilità offerta ai contribuenti di poter rimediare in tempo pagando sanzioni ridotte, evitando di incorrere in controlli futuri. 800 24 00 24 per tutte le vostre richieste di chiarimento su questo argomento. Le prime 5 persone che interverranno in diretta, quindi non scriveteci le sms col vostro indirizzo, perché lo daremo. Non riusciamo a stare dietro a tutti. Esattamente, solo a coloro che intervengono in diretta. Questa mattina siamo in grado di regalare l'inserto che esce con il Sole 24 Ore proprio oggi, riscossione al via la riforma. Si parla di rateazione fiscale più ampia, più tolleranza sugli errori. E dottoressa Rosanna Cerno, dottore commercialista, anche la iniziativa di cui stiamo parlando questa mattina rientra un po' in tutta quella azione di maggior tolleranza nei confronti di quei contribuenti che in buona fede fanno a volte degli errori e magari appunto a loro viene data la possibilità di sistemarsi senza incorrere in accertamenti preoccupanti e magari meccanismi sanzionatori pesanti? Sì, diciamo che nell'ultimo anno, anno e mezzo, già abbiamo visto che le intenzioni del governo e quindi anche del legislatore in questo caso sono un po' cambiate. Perché sono previste non solo adesso anche sanzioni un po' più tenui, ma soprattutto è prevista la possibilità per il contribuente di ravvedersi, uso questo termine per dire per autocorreggersi, quindi capire che ha commesso un errore e in questo caso pagare sanzioni ridotte perché si corregge spontaneamente senza aspettare il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questa ottica va vista la lettera dell'Agenzia delle Entrate, cioè con questa lettera stanno avvisando un contribuente che era tenuto a presentare la dichiarazione ma che non l'ha presentata a farlo entro il 29 dicembre poi di quest'anno, quindi ci pagando una sanzione ridotta che dovrebbe essere intorno pari a circa 25 euro. Quindi con 25 euro si sana questa tardiva presentazione della dichiarazione perché si sarebbe dovuta presentare entro il 30 settembre, invece si potrà presentare fino al 29 dicembre 2015 pagando questa sanzione con un modello che si chiama F24 di 25 euro. Senta, dottoressa Cerno, sì, adesso ci arriviamo di nuovo ai termini, alle sanzioni previste per chi presenta questa dichiarazione tardiva. Le chiedo, secondo lei come professionista, 220.000 lettere, avvisi, richiami, come li abbiamo definiti stamattina, sono tanti o sono pochi? Che ne pensa di questa cifra che è scaturita appunto da questo accertamento comunque complessivo dell'Agenzia delle Entrate che ha incrociato tutti i dati a sua disposizione? Ma guardi, se pensiamo all'intero territorio nazionale non sono nemmeno così tanti questi inviti, queste lettere e riguardano, ripeto, magari proprio quelle posizioni, magari in un periodo come quello dell'anno scorso, no? Dove molti, e sono stati magari anche fortunati, hanno cambiato datore di lavoro, allora a quel punto pensando di non dover fare la dichiarazione, perché ricordiamolo, chi è lavoratore dipendente di solito non presenta la dichiarazione dei redditi perché non è un soggetto tenuto, perché se io percepisco solo redditi di lavoro dipendente oppure di pensione e me li corrisponde un unico datore di lavoro, magari non sono tenuto a fare la dichiarazione dei redditi perché la legge non mi obbliga a farlo. Certo, allora, se non ho spese mediche per esempio da scaricare o che ne so, gli interessi sul mutuo da detrarre, è ovvio che... Ecco, certo, quindi magari sono attivo. Quelle persone che non avendo mai fatto la dichiarazione dei redditi perché non rientravano tra i soggetti obbligati, avendo cambiato questa situazione perché magari, ripeto, nel scorso anno hanno cambiato datore di lavoro, allora adesso magari inconsapevolmente si sono trovati a non presentare la dichiarazione pur essendo obbligati. E quindi l'agenzia li avvisa. Certo. Allora le faccio subito sentire qualche domanda da parte dei nostri ascoltatori, quindi vivacizziamo un po' il nostro contenitore con l'esperienza concreta di chi ci ascolta, così almeno ci caliamo ancora un po' di più nella realtà senza rimanere un po' nel vago, no, di questa questione che naturalmente chi è che non è direttamente interessato magari fa fatica a comprenderla fino in fondo. Partirei con la telefonata di Agostino romano, che ci chiama da Roma. Buongiorno Agostino, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Intanto lei lo vuole il nostro inserto? Sì, grazie, magari. Ottimo, bravo. Ci dica Agostino. Senta, allora io volevo portare la mia esperienza, diciamo, volevo enfatizzare un po' l'aspetto positivo di questi avvisi bonari, nel senso che l'esperienza di mia moglie parla chiaro, cioè mia moglie ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate praticamente sanzioni, due accertamenti fiscali, perché essendo andata in mobilità ha fatto, diciamo, due volte ha cambiato lavoro durante uno stesso anno, e ovviamente non essendo a conoscenza della legge nel merito, involontariamente non ha presentato il 730. Quindi per due anni, ovviamente a distanza di 4 anni e mezzo, come al solito l'Agenzia delle Entrate sempre alla fine si muove, ricorda, sempre un po' come il bradipo, abbiamo dovuto pagare ovviamente l'IRPEF mancante per la mancanza di dichiarazione dei redditi, oltre che la sanzione amministrativa. Nella fattispecie, insomma, da un IRPEF mancante di circa 1200 euro alla fine si è pagati 2003-2005. Nella fattispecie, oggi come oggi, mia moglie avrebbe ricevuto l'avviso bonario pagando 25 euro, avrebbe fatta la propria dichiarazione dei redditi. Quindi... Grazie Agostino, sa perché la ringrazio? Sì. Perché proprio la mia domanda successiva alla dottoressa Cerno sarebbe stata: sì, che differenza c'è rispetto a quello che poteva succedere qualche anno fa per quelle persone che si trovavano nella stessa condizione, certo, no? Di non aver denunciato al fisco questi conguagli, come dicevamo. Dottoressa Cerno, effettivamente qua le sanzioni amministrative pagate da Agostino sono ben diverse da quella appunto che si paga in questo caso con questa batteria di accertamenti e con questa batteria di avvisi che l'Agenzia delle Entrate appunto manda per regolarizzare appunto oggi. L'onere è molto inferiore rispetto a quello che si sarebbe dovuto sostenere in passato per casi identici. È proprio così, proprio per questo questa iniziativa, per quanto diciamo potrebbe essere considerato forte quanto sto dicendo, comunque va letta con favore, perché consente proprio al contribuente che la riceve e che certamente ha dimenticato di presentare la dichiarazione di sanare questa violazione, come dicevo, presentando una dichiarazione che si chiama unico persone fisiche entro il 29 dicembre 2015 e beneficiando così, attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso, di una riduzione delle sanzioni. Una sanzione che è pari, in questo caso, a 25 euro, e se poi sono dovute imposte, le imposte vanno pagate sempre per intero, però la sanzione applicabile è pari ad un nono dell'importo delle imposte dovute. Quindi facciamo un esempio, sì, se è dovuta un'imposta di 1000 euro, la sanzione applicabile, se si presenta questa dichiarazione entro il 29 dicembre 2015, sarà pari a circa 110 euro. Ecco, infatti, facendo un po' il paragone euro con il caso di Agostino, che aveva un arretrato di IRPEF di 1200 euro, avrebbe pagato. In quel caso la sanzione era pari al 100% dell'imposta, quindi altri 1200 euro di sanzione. Ma se invece appunto si fosse trovato oggi in questa situazione di arretrato di 1200 euro di IRPEF? E quindi basta fare 1200 diviso 9, avrebbe pagato di sanzioni 133 euro più 25 euro per la dichiarazione presentata. Allora lo vedete, quindi, che il fisco è amico alla fine della fiera. Bisogna essere fortunati, capitare nel momento giusto, esatto, anche per il fisco. Però questo è anche un modo per cercare di fare entrare in maggior confidenza, immagino, dottoressa Cerni, i contribuenti italiani con il nuovo meccanismo della precompilata. Esattamente sì, perché ripetiamo, l'Agenzia delle Entrate ad oggi può fare questo perché in tempo reale ha ricevuto le informazioni da tutti i sostituti d'imposta, i datori di lavoro, e quindi ha fatto un controllo immediato e incrociato, no? E quindi ha visto chi non ha presentato la dichiarazione. Negli anni precedenti, prima del precompilato, queste verifiche avvenivano dopo circa 2 anni. Esatto, anzi anche 3 o 4. Era scaduto il termine per godere delle sanzioni ridotte. 800 24 00 24, avete ancora una decina di minuti di tempo, A, per fare le vostre domande, B, anche se volete, per ricevere l'inserto riscossione al via la riforma. Per chi non lo vuole ricevere da noi, naturalmente è in edicola con il Sole 24 ore, quindi basta, potete andare comunque recuperarlo in qualche modo se siete tanto appassionati di questi argomenti. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Stufe, caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e denari. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. Sì, beh, se arriva la lettera dell'Agenzia delle Entrate, altro che ti distrai. Sai come ti scatta subito l'alert fisico? E allora ci spaventiamo sempre, anche se in realtà queste missive, che sono in corso di diffusione proprio in questi giorni, 220.000 richiami, come le abbiamo chiamati, appunto, sono destinate a quei contribuenti che hanno scelto di, appunto, lo scorso anno, non fare la dichiarazione dei redditi quest'anno, dottoressa Cerno, perché poi qua pure vanno chiariti i termini della questione. Allora, che in teoria potevano beneficiare dell'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, che quest'anno ha distribuito milioni di precompilate, ma praticamente il contribuente di cui stiamo parlando questa mattina che cosa ha fatto? Non l'ha neanche presa in considerazione la precompilata, oppure l'ha rimandata perché... così com'era? Non pensava di essere tenuto a farla. Esonerato, pensava di essere esonerato, perché, lo ricordiamo, per legge non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e quindi anche il 730 o il modello unico persone fisiche, coloro che, per esempio, le persone che hanno soltanto redditi di fabbricati e quindi posseggono solo l'abitazione principale, oppure coloro che hanno soltanto redditi di lavoro dipendente o di pensione, corrisposti però, attenzione, da un unico datore di lavoro che effettua quindi le ritenute da conto, cioè sostanzialmente trattiene le imposte alla fonte. E quindi questi soggetti non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. Quindi queste lettere, come dicevo, riguardano magari proprio queste persone che sono solo titolari di reddito di lavoro dipendente, che magari hanno una sola casa, non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi, ma l'eccezione sta nel fatto che l'anno scorso hanno cambiato lavoro e quindi erano tenuti a presentare. Quindi, insomma, da quello che capisco sono questi potenzialmente quei contribuenti che potrebbero ritrovarsi nella condizione di ricevere questo avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate a regolarizzare la propria posizione contributiva. Sentirei Fabio da Piacenza, perché penso proprio di capire che sia uno di questi. Fabrizio, benvenuto. Sì, buongiorno, benvenuto e complimenti per la trasmissione. Ci dica. Sì, il mio caso è questo. Io l'anno scorso ho cessato l'attività lavorativa aderendo ad un fondo di solidarietà messo in atto dal mio istituto di credito presso il quale lavoravo. Sì. Quest'anno nel precompilato mi è arrivata la certificazione del mio reddito da gennaio a giugno, che è il periodo in cui io ho lavorato regolarmente, ma da luglio a dicembre io, pur avendo percepito un assegno di sostegno al credito da parte dell'INPS, ho ricevuto regolarmente la certificazione unica dell'INPS, ma non ha fatto la dichiarazione dei redditi, quindi non ha la dichiarazione l'ho fatta perché il reddito dell'INPS risultava essere un reddito a tassazione separata. Che però poi nel 730 io mi sono rivolto a un CAF perché la situazione era complessa. La situazione era piuttosto complicata per quelle che erano le mie conoscenze, per cui rivolgendomi ad un CAF ho visto che però nel 730 l'importo del soggetto a tassazione separata non è stato indicato. Fabrizio, si fermi lì. Dottoressa Cerno, potrebbe ricevere il richiamo dell'Agenzia delle Entrate in questi giorni? Fabrizio potrebbe essere uno di questi 220.000? No, perché ha presentato la dichiarazione dei redditi. Quindi, semmai, ecco perché dicevo, stiamo attenti ai termini, potrebbe, ma spero di no per lui, ricevere eventualmente l'anno prossimo, entro l'anno prossimo, entro il 30 aprile dell'anno prossimo, un cosiddetto avviso bonario. Se magari l'Agenzia delle Entrate vede che c'è un'irregolarità all'interno della dichiarazione presentata, quindi del 730, ma non riguarda questo caso. In quel caso, con l'avviso bonario, che rischio correrebbe Fabrizio di pagare una sanzione in misura diversa rispetto a quello che abbiamo detto prima? Sì, perché con questo al cosiddetto avviso bonario non si contesta certo la mancata presentazione della dichiarazione, come sta accadendo per queste lettere, ma si contesta magari un errore di compilazione del 730 oppure un pagamento inferiore rispetto al dovuto. Fabrizio si è rivolto, ad un CAF, ne risponde Fabrizio, ne risponde il centro di assistenza fiscale di questo errore, perché mi pare di capire che Fabrizio si sia avvalso comunque. Delle eventuali maggiori imposte dovute ne risponde sempre il contribuente. Certo. Sulle sanzioni c'è da vedere, insomma, perché se la sanzione, diciamo l'errata compilazione dipende dall'errore commesso dal professionista o dal CAF, allora le sanzioni dovrebbero essere sempre, diciamo in prima battuta, vengono addebitate al contribuente, però il contribuente può chiedere poi l'eventuale sospensione di questa sanzione da pagare e quindi poi l'ufficio provvede ad irrogare la sanzione al professionista che ha trasmesso la dichiarazione o al CAF. Ivano da Vicenza, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutte. Veloce, grazie, che il tempo qua ci sfugge di mano. Grazie. Il mio caso, io lavoratore dipendente, mia madre è pensionata, e tu che bella cosa, il precompilato. Faccio il precompilato, accetto tutto, sì. E mi chiedono poi alla fine un appoggio bancario, avanzavamo poche decine di euro, no? Certo, avevate un piccolo credito, sì. Avevamo un piccolo credito. Io non mi ricordo assolutamente di avere visto qualcosa di conferma. Adesso io ho il dubbio di avere effettivamente inviato la mia dichiarazione. Chiaro, Ivano. Grazie. Ritorniamo un po' allora ai meccanismi della precompilata. Prego. Perché si avvale di questa modalità di faremo fare la denuncia diretta? Faremo poi una puntata sulla memoria, per me e Ivano, perché no, anche a me capita, l'ho fatto se... o non l'ho fatto. Ma il tema è capire se dovevamo riceverla o meno. Dottoressa Cerno, esiste un obbligo da parte dell'Agenzia delle Entrate di confermare al contribuente che si è avvalso della possibilità dell'opzione precompilata, appunto, di ricevere una conferma o meno, di mandare, di inviare una conferma di ricezione o meno? Sì, perché allora diciamo che dal 15 aprile 2015 in via sperimentale, e questo bisogna sottolinearlo, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente il modello 730 precompilato, modello che poteva comunque essere accettato oppure modificato. E quindi ovviamente a prescindere dalla eventuale notifica, quindi dall'eventuale ricevimento di questo modello 730 precompilato, resta fermo comunque l'obbligo e la possibilità di presentare questa dichiarazione dei redditi autonomamente compilata. Che cosa può fare il nostro ordinarie? Ivano da Vicenza per verificare che la sua operazione sia andata a buon fine o meno? È andata a buon fine, ma io gli consiglio comunque a questo punto di chiamare veramente l'Agenzia delle Entrate, perché appunto l'agenzia, anche quando ha diciamo messo in atto questa campagna del 730 precompilato, ha detto che chi voleva ricevere maggiori informazioni e assistenza poteva contattare il call center a questo numero 848 800 444. Ivano, se non le è chiaro il meccanismo, magari ci scriva e le rifisseremo punto per punto tutto il percorso che deve fare. La sua è una situazione da contribuente molto semplice, speriamo insomma che il disagio per il nostro amico non sia poi così rilevante. Sentirei velocemente Cipriano da Frosinone, se riesco poi anche Aurora da Milano, perché abbiamo già individuato i 5 ascoltatori che stamattina si sono meritati la nostra super guida fiscale. Cipriano, buongiorno, che nome impegnativo. Buongiorno. Buongiorno, ci dica velocemente. Cipri. Senta, io faccio il 7,40, non faccio il 7,30. Per errore, nei miei redditi del 2000, della dichiarazione del 2012, non ho inserito un reddito, un CUD di 9.400 euro. Allora, sì, Cipriano, quindi fuori questo documento. 7,40, dottoressa Cerno, che non esiste più oggi, abbiamo il modello unico, giusto? È l'unico, esatto. È l'unico per una situazione di 4, del 2012. Sì. Cipriano, che cosa può fare? Non è interessato evidentemente dai 220.000 richiami che l'agenzia manderà. Cosa fa? E sicuramente, se non l'ha già ricevuto, riceverà a breve un avviso cosiddetto bonario, dove emerge appunto questa mancata indicazione del reddito percepito. Lui chiede se si può autodenunciare, perché si è reso conto con qualche anno di ritardo di questa situazione prima che se arrivi l'avviso. Lui può allora, fare. Se non ha ricevuto ancora nessun avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate, un cosiddetto avviso bonario, o se non ha ricevuto un avviso di accertamento, può ancora fare il ravvedimento. Ottimo. E quindi ravvedersi spontaneamente. Benissimo, vada al suo commercialista Cipriano, che le dirà tutto il procedimento che deve seguire. Salutiamo Aurora da Milano, che non riusciamo a sentire, ma a cui mandiamo il libro. Se ci vuole scrivere Aurora, l'indirizzo è sempre quello: cuoredenari@radio24.it. Dottoressa Cerno, grazie molte per la sua chiarezza. Grazie. Ci risentiamo presto. Perfetto. Noi torniamo domani, naturalmente. Noi torniamo domani con ma lo possiamo Investire dire? Informati. E abbiamo il grande ospite. Ma dai, dillo. Lo posso dire? Il nostro grandissimo amico Giacomo Poretti. Siamo veramente molto contente di averlo ancora qua con noi, perché è molto affezionato a Cuore Denari. A buon gusto. Certo. A domani.